mattina mi diverto io. Cada mattina mi diverto io, non tutta. E come mattina mi diverto io. Come mi diverto io. Domani c'è il cavetto a trovare. E che cavetto? Che faccio il cavetto a trovare? E io? Io, attacco il cavetto. Sì, la mattina c'è la schiata a trovare. Ma sei tu che rompi i coglioni? Oh, che se domani mi diverto io, porta la bagaglia.